Il punto di Stefano Folli. Oggi è il giorno in cui i gufi saranno zittiti una volta per tutte, dice Matteo Renzi. E per gufi si intendono quanti restano nell'ombra sperando in un passo falso del governo, in un errore o in un ostacolo che faccia inciampare il Presidente del Consiglio. Tutti hanno capito che sono soprattutto da ricercare all'interno del Partito Democratico, fra quanti non gradiscono il galoppo di Renzi e vorrebbero che si facesse lo sgambetto da solo, non avendo essi la forza di contrastarlo. Ma è proprio così? A ben vedere, nel PD di oggi c'è soprattutto gente che spera di vincere le elezioni una volta tanto, e finché il premier segretario rappresenta la migliore opportunità di riuscirci, lo seguiranno. In particolare sulla politica economica, sulle misure per i bassi redditi che oggi saranno rese ufficiali e vedremo quindi se sono davvero sostenibili. Altro è il discorso sulla riforma del Senato e sulla legge elettorale, ma lì non è questione di gufi, bensì di non sbagliare il riassetto complessivo delle istituzioni, che non può essere solo un argomento di campagna elettorale.